Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Se il vostro gatto andasse sott'acqua e mangiasse i granchi, cosa fareste? Sono bei problemi questi qua. Benvenuti a Möbius, ascoltiamo i titoli. C'è un misterioso gatto anfibio. Vive in Malesia, nuota e si nutre esclusivamente di pesci. Come gatto è strano, come felino meno. L'antica tradizione yoga e le moderne neuroscienze si mettono insieme per sperimentare nuove terapie per il disagio psicologico. Istruzioni per giovani innovatori. 5 esperti segnalano possibili errori e valide opportunità per chi ha buone idee nelle applicazioni tecnologiche. Si chiama Energy Empire ed è un gioco progettato da 3 giovani laureati. Si gioca come a Monopoli, ma si costruiscono impianti di energie rinnovabili. Allora, Chiara, albicocco. Sì, buonasera Federico. Sempre qui con i tuoi animali. Sì. Quando si parla di etologia mi sento abbastanza chiamata in causa. Tu sei un etologo, ma adesso sentiamo un etologo che lavora sul campo. Chi è? Roberto Marchesini, leggo sì, qua. Sì, è etologo e autore di diversi libri, anche sui gatti, perché stasera parliamo di gatti, di un gatto un po' insolito, ora ci arriviamo. Intanto buonasera professor Marchesini. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, parliamo di un gatto strano che è stato citato su un recente articolo di New Scientist, una prestigiosa rivista, ed è un gatto molto particolare, un gatto malese che ama sguazzare nell'acqua, pescare e fare tutto quello che i nostri gatti comuni, in casa nostra chi ha un gattino lo sa, che odiano l'acqua, odiano farsi la toiletta, odiano farsi il bagnetto, eccetera, eccetera. Scusa, la toiletta con la lingua se la fanno, non se la fanno soli. Tu dici lavandosi le ascelle col sapone, queste robe. Esatto. No. L'acqua è lontana. Cioè. Vero, professore? Così, questo gatto è molto particolare. Si chiama Prionailurus planiceps. Certamente, la grande differenza sicuramente con il nostro gatto è legata al fatto che il gatto domestico appartiene a una tipologia ben precisa di felino, che è il Felis silvestris libica, che è vissuto nelle aree soprattutto desertiche della Nord Africa e dell'area medio orientale, e quindi è un gatto che ama molto la sabbia, ama molto il calore, a differenza di altri felini che, come per esempio anche il coguaro o altri, che sono abituati più anche ad andare nell'acqua, quindi a essere il giaguaro per esempio. Quindi c'è una differenza notevole tra i diversi felini, anche le tigri hanno questa tendenza ad andare nell'acqua, invece altri felini assolutamente no. In realtà questo gatto ha delle particolarità anche anatomiche, il nome stesso con cui lo chiamiamo, che viene detto in italiano in maniera volgare gatto a testa piatta, perché ha proprio anatomicamente la fronte schiacciata e anche le zampe sono semipalmate, così professore? Sì, infatti c'è proprio questa differenza che lo rende un animale proprio adatto a cacciare in acqua, adatto a vivere in ambienti umidi e a nuotare letteralmente. È vero, le tigri vanno in acqua, i leoni invece se ne stanno lontani, ma i gatti che fanno cose di questo genere, no, questo non è affatto comune. No, non è affatto comune, anche se talvolta si riscontrano dei gatti che hanno queste tendenze, cioè non è che da un punto di vista comportamentale si è visto che insomma il gatto ha questa caratteristica di mantenere il proprio mantello sempre molto pulito attraverso un'azione della lingua, attraverso questo auto-grooming che fa sì che il gatto si mantenga pulito, perché il mantello del nostro gatto è cosparso di organi sensoriali, le vibrisse, poi in tutto, e questi organi sensoriali diciamo che hanno una sorta di ecolocazione tattile, cioè un gatto al buio completo riesce a sentire un oggetto, un ostacolo, semplicemente perché l'aria va a sbattere contro questo ostacolo e fa una sorta di eco che il gatto percepisce a livello tattile con queste vibrisse. Quindi già questo ci dovrebbe far capire quanto il gatto è sensibile a livello del mantello. Quelle persone che costantemente accarezzano il gatto e poi dice il gatto si è volta e ti graffia perché è traditore, no? È perché noi siamo assolutamente insistenti. Troppo. non ci rendiamo conto che in realtà questo mantello non è un peluche, non è un questo mantello un sensore. Non è sensoriale, infatti, quindi la sensibilità del gatto rispetto al mantello è altissima, quindi il gatto ha bisogno di sentire sempre questo mantello in ottima forma, quindi diciamo che non è portato a avere addosso dei profumi o delle sostanze in qualche modo che possono andare a compromettere questa sua sensibilità. E un'altra particolarità abbastanza peculiare è che, oltre ad essere un predatore come gli altri felini, è un predatore di pesci. Esseri acquatici, sì, pesci, ma non solo, anche piccoli granchi, piccoli anfibi, eccetera. Anche questo è una particolarità non indifferente, perché ha una dieta completamente diversa da quella degli altri. Sì, il gatto, dobbiamo dire anche che comunque tra le diverse, il nostro gatto ha anche quella di essere attirato da le scaglie luminose, che quindi ci fanno capire come abbia anche poi un modulo comportamentale dell'uncinare dal basso, che è pescare sostanzialmente. Quindi se noi andiamo a vedere i tre grandi moduli predatori del nostro gatto, che sono quello dell'afferrare al balzo, che per appunto gli uccelli, afferrare con un salto, che è quasi sempre rivolto a un roditore o a una lucertola, e uncinare dal basso, che è rivolto anche ai pesci. E quindi il nostro gatto, diciamo, ha tre moduli comportamentali che in qualche modo possono essere avvicinati anche a una predazione acquatica, anche se non c'è questa tendenza a tuffarsi, a buttarsi nell'acqua. Ma io vorrei capire bene, cioè si butta nell'acqua e va sotto con la testa e nuota, vede un pesce, caccia proprio, sì, nuota, e lo prende, nuota. Nuota come... Però mi scusi, nuotando deve vedere il pesce. Sì, diciamo che tutti i felini hanno questa caratteristica, cioè hanno una forte attenzione per gli oggetti in movimento che riflettono la luce. Infatti il modo migliore per giocare e attirare l'attenzione del nostro gatto è quello di avere un pendaglio metallico che riflette la luce, perché tutto ciò che riflette la luce ha un effetto molto forte sul gatto. Quindi diciamo che il gatto si orienta in maniera fortemente visiva, a differenza di altri predatori, come per esempio l'ornitorinco, che fa una caccia acquatica, ma è assolutamente privo di qualunque sensorialità, diciamo visiva, anche tipo olfattiva. L'ornitorinco caccia i gamberetti, perché questi, muovendosi, emettono una scarica elettrica. Siccome ha dei recettori dell'elettricità, come peraltro c'è anche lo squalo, la caccia è diretta verso questa preda, che emette questa piccola scarica elettrica attraverso il movimento muscolare. Quindi potremmo dire che l'ornitorinco è completamente cieco, sordo, è l'unica cosa che ha durante questa caccia. Ecco, quindi è chiaramente il gatto invece è fortemente visivo. Se noi guardiamo proprio la struttura del globo oculare, è un animale che ha una grandissima capacità di percezione del dettaglio, anche per esempio a differenza dei cani, che hanno una scarsa percezione dei dettagli, sono prevalentemente olfattivi, hanno un'osservazione rispetto al movimento, però sul discorso dei dettagli sono poco capaci. Invece i gatti hanno questo globo oculare molto molto capace di un dettaglio molto fine. Infatti diciamo che il gatto vede anche la freccetta del mouse del computer, no? Sì, assolutamente. Tende a orientarsi anche su dettagli molto fini. E purtroppo questo particolare gatto malese rischia l'estinzione, purtroppo è anche minacciato di estinzione, e c'è un importante lavoro di ricercatori thailandesi che hanno studiato, e qui ecco che viene il succo dell'articolo su New Scientist, hanno studiato la genetica di questo gatto e hanno, diciamo, isolato la parte genetica che lo predispone a questo atteggiamento. E attraverso questo appunto isolamento si potrebbe utilizzare l'ingegneria genetica per trasmetterlo nel gatto comune, così da evitare, diciamo, l'estinzione di questo gatto. Ecco, un po' in soldoni, però, professore, è una cosa realistica? Ma noi dobbiamo sempre tenere presente che non c'è mai una corrispondenza stretta e esclusiva tra un gene e un'espressione comportamentale. Quasi sempre i geni hanno effetti pleiotropici, cioè danno più effetti sia da un punto di vista strutturale organizzativo che da un punto di vista soprattutto comportamentale. Poi per quanto riguarda gli aspetti comportamentali, invece quasi sempre un comportamento è frutto di più dell'adattamento all'habitat, più interazioni genetiche e naturalmente sullo sviluppo. Quindi non dobbiamo dimenticare che l'ontogenesi, cioè la relazione tra il soggetto in età evolutiva e quello che riceve dall'ambiente esterno, è molto importante in animali complessi come i mammiferi. Quindi vedere questo determinismo genetico assolutamente sì, oggi è anacronistico. Ah, non avevamo anche noi qualche dubbio, le chiedevamo conferma. In effetti questo appartiene un po' a quelle dichiarazioni di ricerca che risentono in questo periodo, negli ultimi 8-10 anni, un po' di un certo delirio di onnipotenza, no? Sulla un po' di sensazionalismo, sì, che è normale, infatti. Perché poi effettivamente quando uno fa una ricerca è portato anche un po' ad enfatizzare, non voglio dire sono anche, però è normale, è umano anche enfatizzare della propria ricerca, che è sicuramente importante, perché esistono delle causalità genetiche, delle influenze genetiche, delle promesse genetiche, però quando parliamo di comportamento il rapporto stretto è assolutamente fuorviante, cioè nel senso che c'è una cofattorialità, sempre una cofattorialità nell'evoluzione. Certo che però se mi trasformassero il tuo gatto in un subacqueo sarebbe fantastico. Però dovresti stare attento ai pesciolini. Sono già così belli che lasciamoli stare come sono. E vabbè, però andare al mare, andare a pesca col proprio gatto sarebbe fantastico. Sì, tu guardi. Mando lui, è vero. Esatto. Vabbè, insomma, speriamo che ci pensi da solo a salvarsi dall'estinzione, o più che altro sarebbe meglio salvaguardare l'habitat da parte nostra di questo gatto, per evitare appunto questa triste sorte. Va bene, grazie Marchesini e buon lavoro. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci siamo, pronti? Siamo al quiz. Domanda brevissima. Il girasole è adatto alla produzione di due punti. Primo, metilbutiletere. Ci scriverete metil molto più semplicemente. Oppure biodiesel. Ci scriverete diesel. Oppure etanolo e ci scriverete nolo. Dove scriverete? Sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è il Dizionario Bilingue Italiano Gatto e Gatto Italiano di Jean Cuvalier, curato da Roberto Marchesini, che avete appena sentito, l'abbiamo appena intervistato. L'editore è Sonda. In collaborazione con IBS.it. Nell'antica tradizione della scienza yoga, questo suono che state ascoltando, questo om, è il suono di una voce umana che accompagna molti momenti di meditazione, di pratiche yoga. Nell'antica tradizione indiana è il primo suono. Tutte le lingue parlate sono nate declinando questo primo suono. Non solo le lingue, anche tutte le cose pensate. Stiamo quindi tornando alle radici di una delle forme più antiche di cultura e conoscenze umane, tuttavia lo facciamo per tornare subito al presente, anzi a una ricerca di frontiere, quindi anche proiettata verso il futuro. C'è un progetto singolare rivolto a sperimentare una nuova terapia per i disturbi psicologici come la depressione, le forme di ansia gravi, gli attacchi di panico. È nato presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fate Bene Fratelli Oftalmico di Milano, in stretta collaborazione con la sezione italiana di IAV, una ONG internazionale, un'organizzazione non governativa che opera nell'ambito della salute, con interventi nei quali la metodica SKY, così si chiama, ha sempre un ruolo importante, metodica che consiste in un protocollo di tecniche di respirazione abbinate a semplici posizioni yoga e a una rilettura moderna della conoscenza yogica, della natura della mente. Ecco, quindi le neuroscienze, un'area di ricerca che in questi ultimi anni sta ottenendo grandi risultati sperimentali, si incontra con lo yoga. Lo fa costruendo dei piccoli gruppi di pazienti che in incontri periodici, una volta alla settimana, pratica alcuni particolari esercizi yoga, quelli che con modalità diverse sono appunto basati su tecniche di respirazione, come vi dicevo. Prima di iniziare gli incontri le persone sono soggette a delle visite mediche, a dei colloqui, non solo prima ma anche durante il periodo in cui si svolgono le sedute yoga. Queste pratiche poi non escludono che i pazienti siano soggetti a terapie farmacologiche. Quindi una vera e propria confluenza di due tecniche diverse. Questa sera incontriamo alcune persone che stanno coordinando questo progetto oppure che ne sono dietro come background culturale. Sono Roberto San Lorenzo, biologo responsabile per l'Italia delle applicazioni della ricerca medico-scientifica sulle metodiche SKY. Ravi Shankar, oggi uno dei maestri yoga più autorevoli a livello mondiale. Claudio Mencanci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fattebene Fratelli Oftalmico di Milano. E poi Nicola Montano, professore associato di medicina interna e ricercatore nel campo del controllo nervoso del sistema cardiovascolare. Roberto San Lorenzo, buonasera. Buonasera. Quando ci si approccia allo yoga e quindi a queste antiche tradizioni, quando lo facciamo anche oggi, facciamo una qualcosa che per molti di noi può essere piacevole, ma la sensazione che abbiamo, l'atteggiamento che abbiamo è di andare a incontrare un'antica tradizione che è piacevole conoscere e praticare anche oggi. Invece, nella ricerca di cui stiamo per parlare, scopriamo qualcosa che vale anche in altri campi, cioè che lo yoga non è qualcosa di antico che continua a perpetuarsi, no? Ma è qualcosa che continua a cambiare. Decisamente sì. Lo yoga è nato migliaia di anni fa per fronteggiare problematiche che sono estremamente attuali e tutt'oggi, e cioè lo stress, il disagio che il relazionarsi con le problematiche di tutti i giorni generava nelle persone di allora. Ovviamente quello che è cambiato è il motivo dello stress, ma i meccanismi fisiologici che sono alla base di tutto questo e l'impatto che hanno sul nostro sulla nostra attitudine cognitiva, su come vediamo il mondo, sono sempre gli stessi. Sì. Ma sbaglio se dico che anche lo yoga è costantemente aperto a modificarsi, a trovare dei suoi strumenti che continuano a rinnovarsi? Decisamente sì. Lo yoga è una tradizione che in sé prevede un continuo rinnovamento. C'è proprio un albero genealogico dei vari maestri che nell'arco dei millenni sono riconosciuti come degli innovatori che non fanno nient'altro che prendere questa immensa conoscenza e sottolineare e utilizzare di più aspetti diversi di quello che è tutto il patrimonio a seconda di quello che è la necessità di quel periodo. Adesso sentiamo un grande maestro yoga, il suo nome è Ravi Shankar, un nome che probabilmente a molti ricorderà, il grande musicista indiano, suonatore di sitar, ma è solo una omonimia. Ravi Shankar è uno dei più importanti depositari contemporanei della cultura yoga. L'abbiamo intervistato e la prima domanda è stata la seguente: come avviene che la tradizione yoga sia in grado di relazionarsi alle scienze contemporanee? Alcuni fenomeni che appartengono all'esperienza delle persone per migliaia di anni sono stati poi conosciuti in modo sistematico e la scienza non è altro che lo studio sistematico della realtà. Le leggi di Newton erano presenti già prima che lui le scoprisse, così come certe sostanze vegetali che sono curative per il nostro corpo sono patrimonio della conoscenza da moltissimo tempo. Ecco perché lo yoga, l'Ayurveda, indicano quali posture, quali esercizi hanno effetti specifici su parti diverse del corpo. Questa è una conoscenza che non si è accumulata in un giorno, ma ha richiesto migliaia di anni. In questo senso, questa tradizione è compatibile con la scienza moderna. Lei pensa che ci siano anche altre aree della scienza attuale con le quali questa tradizione potrebbe relazionarsi? Sì, certo, assolutamente. In Oriente si è sempre stati aperti ad analizzare criticamente qualunque concetto. La ricerca e la critica sono sempre state incoraggiate. Un approccio che è sempre stato molto simile a quello della scienza contemporanea. Non c'è mai stata contraddizione in Oriente fra scienza e tradizione. Nessuno scienziato è mai stato perseguitato in Oriente. Cosa ci può dire in particolare delle tecniche yoga applicate alle diverse forme di disagio psichico, ansia, depressione? Yoga is very useful. Certamente, lo yoga è molto utile in molte patologie psicosomatiche. Naturalmente deve essere praticato con un controllo medico. Voglio dire che gli esercizi di respirazione devono avvenire in sintonia con una supervisione medica. Abbiamo già verificato che in altre patologie come l'ipertensione o il diabete si hanno ottimi risultati con le pratiche yoga. Ci sono molti studi che ormai lo confermano. L'area sulla quale adesso si sta lavorando è quella dei disturbi psichici. Qui è stato fatto molto, ma c'è ancora molto da fare. Quello che posso dire è che lo yoga in questi casi è una pratica assolutamente sicura. Molte persone l'hanno già provata nel mondo e il risultato è che si sentono meglio. Claudio Mencacci, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. In che modo allora nella vostra ricerca si ha un'intersezione fra le conoscenze della tradizione yoga e quelle della ricerca psichiatrica? Il dato fondamentale è che abbiamo costruito il gruppo di studio utilizzando da un lato delle scale di valutazione dell'ansia, della depressione e della gravità di malattia internazionalmente riconosciute e contemporaneamente andiamo a valutare tutti quei parametri clinici obiettivabili che sono tipici della ricerca scientifica, cioè andare a verificare se effettivamente quelle metodiche, quell'approccio danno degli esiti misurabili. Però la terapia psichiatrica che viene messa in campo con la sua strumentazione, per esempio anche con il trattamento con psicofarmaci, no? La novità è proprio questa, la sperimentazione non presuppone il fatto di sospendere le terapie in atto, si pone come una verifica sull'effettivo miglioramento che questa pratica può portare a delle persone che seguono, e questo è corretto, le cure che hanno dato per adesso le maggiori evidenze scientifiche. Però nel vostro lavoro c'è proprio un incontro tra neuroscienze e yoga. Com'è che avviene, se vuole, proprio dal punto di vista fisiologico, se è possibile dirlo, questo incontro? L'incontro avviene perché le neuroscienze vanno a valutare quelli che sono i due ormoni dello stress, cioè il cortisolo e il corticotropin factor. Questi due indicatori sono quelli che maggiormente agiscono per bloccare quelli che sono i processi di neurogenesi in alcune aree cerebrali. Contiamo che andando a valutare la loro riduzione, questi processi di neurogenesi, che sono apposta alla base di disturbi depressivi ed ansia, possono, come dire, tornare alla loro normalità. Questa è la nuova sfida. Buonasera Nicola Montano. Buonasera. Ricordo che lei fa ricerca nel campo del controllo nervoso del sistema cardiovascolare. A lei appunto vorrei chiedere com'è che questi effetti della respirazione prodotta dalle pratiche yoga hanno un risultato così interessante, insomma, che può essere così interessante nel caso dei disturbi psicologici? Certo, ma facciamo una piccola premessa. Il respiro è una delle variabili più importanti per il controllo della frequenza cardiaca. Questa è una cosa che poco nota spesso anche agli addetti ai lavori, anche agli stessi clinici. E la possibilità di controllare la frequenza cardiaca da parte del respiro avviene perché il respiro è il principale modulatore dell'attività nervosa che regola la frequenza cardiaca e la pressione. Esiste, tutti i visceri hanno un controllo nervoso che è legato all'attività del sistema nervoso autonomo e che è costituito da due parti essenzialmente, un acceleratore che è l'attività nervosa simpatica e un freno che è l'attività nervosa vagale. Allora questi due sistemi, l'acceleratore e il freno, devono stare in equilibrio e spesso questo equilibrio viene alterato in certe situazioni come lo stress cronico. La parola stress spesso è abusata, ma da un punto di vista puramente fisiologico e patologico, stress cronico significa un'iperattivazione simpatica. Il sistema simpatico che vuole far aumentare la pressione, la frequenza cardiaca, viene attivato costantemente e viene attivato proprio dal sistema nervoso, quindi quello che noi chiamiamo stress non è altro che l'espressione fisica di un'attivazione cerebrale. E credo che vada sottolineato il fatto che la frequenza cardiaca è quell'indicatore dello stato di ansia di un soggetto, di una persona, no? E quindi è lì che è importante fare questo controllo. Torniamo quindi al respiro. Il respiro perché è così importante? Perché gli attacchi di ansia, l'attacco di panico, è caratterizzato da un aumento della frequenza respiratoria. Questo è il primo dato. Quello che succede nella catena degli eventi biologici è che aumenta il respiro, l'attività respiratoria. La frequenza cardiaca diventa molto elevata, questo fa aumentare moltissimo la frequenza cardiaca, se ha una tachicardia la persona la percepisce, parte l'attacco d'ansia. Quindi è ovvio che se noi moduliamo la frequenza cardiaca, se impariamo a respirare lentamente con una certa frequenza, seguendo un certo tipo di modalità ritmiche, riusciamo contemporaneamente a ridurre gli effetti sul sistema cardiovascolare e anche gli effetti di ansia e di panico che possono insorgere proprio a seguito di questa iperattivazione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Per parlare del prossimo argomento è qui con me Barbara Gallavotti. Buonasera Barbara. Buonasera Federico. A Mebius affrontiamo ogni tanto vari temi che riguardano innovazione tecnologica, questione di grande rilievo nel nostro paese e che apre a tante considerazioni sul rapporto fra ricerca scientifica e industria e fare impresa. Una parte dei nostri appuntamenti dedicati all'innovazione ha visto Mebius in collaborazione con la Fondazione Cotec. Sì, la Fondazione Cotec è un'associazione costituita nell'aprile del 2001 e ha lo scopo di rafforzare la competitività tecnologica del nostro paese e quindi di promuovere e far crescere la cultura dell'innovazione anche con iniziative di informazione come quella che stiamo facendo noi ora. Ecco, oggi vogliamo proporvi una cornice tematica particolare sul tema dell'innovazione. Come si devono fare i primi passi per produrla e come si devono fare quando questi primi passi sono anche quelli di chi entra per la prima volta in questa avventura, che è trasformare un'idea in un oggetto che può entrare nella produzione e nel mercato. Quindi ci rivolgiamo ai giovanissimi, magari appena laureati con una tesi che già rimanda a possibili applicazioni industriali o un dottorato con la stessa vocazione applicativa. Le domande quindi sono: quali sono gli errori che più facilmente si fanno, come entrare in relazione con le aziende, con gli investitori, come stanno anche le cose oggi in Italia per quanto riguarda la giovane innovazione. Bene Barbara, allora presentiamo i nostri ospiti, sono ben 5. Incominciamo da Riccardo Pietrabis del Politecnico di Milano, anzi lui è prorettore alla sezione del Politecnico di Milano a Lecco. Poi abbiamo Alessandro Ferretti che è CEO di TRE Europa, poi abbiamo Massimiliano Granieri che è vicepresidente di Mito Technology, Andrea Piccaluga che è ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna ed è anche responsabile Survey Networks e Fabio Mazza che è un imprenditore, amministratore delegato di Key Square SRL di Milano. Siete tutti in diverso modo implicati, interessati, impegnati nelle attività di analisi, di studio, di promozione di tutto ciò che è ricerca e innovazione, con esperienze anche diverse. Ferretti, per esempio, lei è adesso anche imprenditore, ma viene dalla ricerca. Fabio Mazza è invece un imprenditore puro, tanto per darvi un quadro generale di come appunto sono collocati i nostri ospiti. Io incomincerei, se tu Barbara sei d'accordo, chiedendo una rapida carrellata su quali secondo voi sono gli errori più tipici che vengono compiuti da chi inizia proprio, fa i primi passi verso l'innovazione e verso il mercato, e insieme però anche se in questi ultimi anni vedete degli aspetti positivi, degli atteggiamenti positivi che vanno bene insomma in questi giovanissimi che incominciano a muoversi. Incominciamo da Massimiliano Granieri. Diciamo un atteggiamento ricorrente non valutato positivamente soprattutto da chi finanzia l'innovazione è voler creare un'impresa che non ha ambizioni, che ha ambizioni troppo piccole, che sceglie mercati di nicchia per esempio. Questo è un errore abbastanza ricorrente. Mentre credo che l'aspetto positivo che è in aumento in Italia e che tende a, diciamo, a portarsi sui livelli di altri paesi è la motivazione. Cioè i ragazzi vedono effettivamente il percorso di studio con un percorso che può terminare nella carriera universitaria, ma anche nell'attività di impresa a contenuto tecnologico. Secondo me la motivazione è un aspetto importante, è quello che fa la differenza tra l'imprenditore e chi invece imprenditore non è. Sentiamo allora anche il parere di Fabio Mazza. Il mio parere si allinea abbastanza per quanto riguarda l'ambizione, che sicuramente deve essere il motore trainante per raggiungere il successo, al tempo stesso però deve essere condita molto bene da concretezza e pragmatismo, cercando di individuare immediatamente se la buona idea e l'ipotesi di un progetto che può anche avere sviluppi enormi nel retrocranio di ognuno di noi possa avere veramente le gambe per poter raggiungere l'obiettivo da solo. Questo credo che sia uno degli aspetti più critici e più difficili che per un giovane che finisce un percorso di studi lo porti probabilmente a non riuscire ad individuare veramente quale possa essere la meta e più che altro il time to market così definito, quindi i tempi per raggiungere quell'obiettivo, che molto spesso quando si tratta di innovazioni, di tecnologie, di prodotti che ancora non esistono sul mercato possono essere anche molto lunghi. Ferretti, Alessandro Ferretti. Dal mio punto di vista sicuramente il rischio più grosso è il provincialismo, ovvero avere un orizzonte, l'orizzonte della competizione un po' troppo ristretto, guardare alla propria città, alla propria regione o al proprio paese in un mondo che ormai è globalizzato, e questo soprattutto nell'impresa high tech non è assolutamente concepibile. Sin dall'inizio bisogna guardare almeno all'Europa, ecco. E invece l'aspetto positivo importante che talvolta riscontro è ancora una volta l'entusiasmo del giovane che proprio mette tutto se stesso, e l'attenzione anche un po' al team, al gruppo di amici che si forma. Questo qui può essere un fattore davvero molto importante per il successo di un'impresa. Quindi pensare in grande scala, no al provincialismo, ambizione, concretezza, entusiasmo, attenzione al gruppo che si crea. Riccardo Pietrabissa, la sua opinione? Il mio punto di vista è quello dell'osservatore dall'università, e la cosa che mi piace molto di questo periodo storico è che molti giovani vengono all'università e quando escono hanno voglia di fare gli imprenditori, non più come una volta che tutti facevano, volevano fare professionisti, dipendenti, eccetera. Questa è una cosa secondo me molto bella e nuova, è una vera innovazione nel nostro anche sistema sociale. La cosa è che molto spesso questi giovani hanno delle entusiasmi, sono talmente innamorati della propria idea che non ne vedono i limiti, e questo può portarli a fare degli errori, quindi non è di per sé un errore, io lo considero un valore positivo. Attenzione che bisogna anche avere il coraggio di guardare il mondo con gli occhi giusti, e questo è uno dei problemi secondo me per i quali molto spesso queste neo-imprese ad alta vocazione tecnologica crescono poco perché uno rimane ancorato alla sua idea e non ha forse sufficiente coraggio di guardare oltre o di guardare diverso. Andrea Piccaluga. Ma anch'io farò riferimento a due elementi di debolezza e a quello che è secondo me un punto di forza dell'imprenditorialità avviata da giovani che escono dall'università. I due punti di debolezza fanno riferimento rispettivamente al mercato e al doppio ruolo, e mi spiego meglio. Una prima difficoltà di questo tipo di imprese è che spesso i giovani imprenditori sottovalutano le questioni relative al mercato e al marketing, nel senso che non prestano sufficiente attenzione, sufficiente tempo, sufficiente impegno alla effettiva valutazione del mercato che hanno di fronte. Spesso si tratta di giovani che controllano, che gestiscono, che hanno inventato eccellenti tecnologie e però soffrono un po' di determinismo tecnologico, pensano che le loro tecnologie magicamente troveranno mercato. Un'altra difficoltà è quella che ho definito il doppio ruolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso i giovani che finiscono l'università o il dottorato e che decidono di avviare un'impresa, spesso per un certo periodo mantengono un doppio cappello, rimangono a fare ricerca all'università con contratti, con borse, con vari meccanismi, e allo stesso tempo avviano l'impresa high tech. Ecco, questa situazione, se in alcuni casi può essere una soluzione utile per gestire fasi transitorie, se si protrae porta a risultati deludenti sia dal punto di vista della ricerca universitaria che dal punto di vista dell'impresa. L'aspetto positivo però è secondo me un aumento della cultura del trasferimento tecnologico e dei rapporti tra università e industria nel nostro paese, e mi spiego meglio. Ora un giovane che finisce l'università o il dottorato e che ha voglia di fare impresa trova delle sponde molto interessanti sia all'interno dell'università che nel mondo delle imprese. Per cui nell'università trova degli uffici di trasferimento tecnologico che lo possono accompagnare in queste fasi di costituzione, indirizzarlo, consigliarlo, e d'altra parte nel mondo delle imprese trova sempre più imprese di dimensioni medie e grandi che possono anche quelle accompagnarlo, magari diventando partner, diventando soci della sua nuova impresa. E questo secondo me è un fatto estremamente positivo e utile. Lei, Picaluga, tra l'altro lavora dentro la rete Netval, che è appunto una rete che mette insieme gran parte dei migliori uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane, no? Sì, noi come Netval cerchiamo di fare la nostra parte. L'università è spesso criticata per supposte inefficienze o lentezza nel reagire al cambiamento. Ecco, sul fronte del trasferimento tecnologico, secondo me le università italiane si sono in questi anni attrezzate abbastanza bene, non temono il confronto con altre esperienze europee e fanno la loro parte nel sostenere i giovani che vogliono provare a valorizzare le loro tecnologie. Quindi lo chiedo in primo luogo ad Andrea Piccaluga: cosa deve fare una persona che è un giovane laureato, una persona al termine dell'università che ha un'idea per qualcosa di innovativo? Deve andare all'ufficio di trasferimento tecnologico della sua università o cosa? Cioè il primo passo, secondo voi, la prima cosa allora, su cui mettere l'attenzione? Ma allora, se si tratta di una persona che sta finendo il dottorato o appena finito il dottorato, sta trascorrendo un periodo di ricerca all'università, l'ufficio di trasferimento tecnologico della propria università è senz'altro un punto di riferimento, è un primo step, ma soprattutto è un ufficio dove può essere indirizzato verso altri servizi. In che senso? L'ufficio di trasferimento tecnologico non deve sostituirsi al giovane imprenditore nello scrivere il business plan, nell'avviare l'impresa, nel fare tutte queste cose. Deve fargli un pochino da fratello maggiore, da grillo saggio. Allora lo deve indirizzare sui primi passi e soprattutto deve informarlo accuratamente su tutti i servizi che sono a disposizione sul territorio, perché di iniziative a favore della nuova imprenditorialità presso parchi scientifici, incubatori, camere di commercio, unioni industriali, ce ne sono tantissimi, no? Come sappiamo alcuni sono più efficaci, altri un pochino meno, talvolta ci sono delle sovrapposizioni, ma l'aspetto positivo è che ci sono tantissimi servizi. Ecco, i giovani ricercatori spesso sono un pochino smarriti in questa molteplicità di servizi. Allora l'ufficio di trasferimento tecnologico accompagna, deve essere un po' il punto di riferimento delle primissime fasi. Molto importante secondo me è anche il contatto con chi ha già fatto un'iniziativa simile. Allora è bene che un giovane ricercatore che vuole diventare imprenditore come prima cosa trovi il modo di interagire con qualche suo collega che l'impresa l'ha avviata da 2 o 3 anni, e anche in questo caso l'ufficio di trasferimento tecnologico può aiutarli a metterli in contatto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Maurizio Meris, ma io so giocare a questa roba qui, come si chiama? Energy Empire, nome altisonante. Senti, ma Federico, ma se io ti do un certificato verde, tu cos'è che mi dai in cambio? Stiamo già giocando, devo dire che mi avevi scritto la risposta, un terawatt di eolico, che io ovviamente non ho. Ma vabbè, andiamo sulla fiducia e... Ma nel gioco potrei. Affare fatto, assolutamente sì. Parliamo di un gioco, evidentemente un gioco da tavolo, che nasce come progetto finale, come tesi di un master. Il master si chiama Terso, cioè Talenti, Energia, Ricerca, Sviluppo, Organizzazione, che ha coinvolto 15 laureati residenti nella regione Sardegna. È uno di quei programmi che cercano di trattenere i cervelli in loco. Dove mettiamola, sono? Mettiamola in questi termini. Presenterei gli ospiti a questo punto, che sono sì. Gianluca Carta, che è ingegnere meccanico ed ha concepito il gioco insieme a Martina Manieli e Giuseppe Nieddu. Buonasera Carta. Ciao a tutti. Salve. Buonasera. Allora, l'altro ospite invece è Giancarlo Michellone, che è presidente di Area Science Park, il parco tecnologico di Trieste, il più grande parco tecnologico d'Italia. Di cui spesso parliamo. Infatti. Buonasera Michellone. Buonasera. Io passerei subito la parola a Carta, chiedendogli in cosa consiste insomma questo gioco. Ce lo descriva un po'. Allora, questo gioco dunque è stato descritto da alcuni come un misto fra Risico, Monopoli, Trivial Pursuit, qualcosa del genere insomma. Praticamente ha come obiettivo quello di comunicare il tema delle energie rinnovabili in modo divertente. Dunque visivamente praticamente, come avete già visto, è un tabellone. Sì, tipo quello del Monopoli insomma, per intendersi, in cui si gira intorno. Si gira intorno insomma, è perimetrato da delle caselle. È dove uno si deve districare e fa strategie che comprendono installazioni di pale eoliche, pannelli fotovoltaici, ricerca sul rinnovabile, molto importante, e incentivi. Quindi insomma presenta tutto il mondo delle energie rinnovabili. Insomma, lo scopo è quello di arrivare nell'arco di 20 giri ad avere un 100% del fabbisogno nazionale. Bisogna qui spiegare che ogni giocatore è responsabile di una nazione e ognuna di queste nazioni ha delle caratteristiche diverse, ha il suo PIL. Esattamente, perché importante comunque del gioco è che abbiamo cercato di dargli per quanto più possibile una veste reale, nel senso tutti i dati che ci sono nel gioco, tutti i numeri comunque vengono da un'analisi seria e attenta comunque della situazione reale europea, della situazione energetica europea, e quindi possiamo vedere che effettivamente in Germania installare un pannello fotovoltaico costa di più, la Germania ha più potenza dell'Italia per quanto riguarda i rinnovabili in questo momento, così come per la Francia, eccetera, eccetera. Mm. Quindi è molto realistico. E tra l'altro durante il gioco bisogna anche rispondere molto spesso a delle domande, perché se si vuole pagare poco la ricerca, bisogna rispondere alle domande un po' tipo Trivial Pursuit. Perché è importante la ricerca? Perché abbatte i costi delle energie rinnovabili. Ah, ho capito, certo. Quindi è un gioco abbastanza davvero realistico. Investire nella ricerca per abbattere i costi, insomma il messaggio che vogliamo lanciare. Va bene, io direi noi da bravi galileiani, divulgatori di scienza, abbiamo anche fatto un test. La prova. Ho preso 4 cavie, le ho messe al lavoro, direi sentire com'è andata. C'è una pianta. Biomasse. Compro una domanda, dai, quanto mi costa la domanda? 40. Ok, domanda. Allora. Biomassa. Il girasole è adatto per la produzione di metilbutiletere, biodiesel o etanolo? Il girasole. Io dico olio. Quello in cima che non si sa cosa sia. Metilbutiletere, è quello? L'accendiamo? Accendiamolo. Biodiesel. Biodiesel. Ai ai ai ai ai. Va bene, qua dentro, casomai non l'avessero capito i nostri ascoltatori, ma c'era la soluzione del quiz, che è allora il metibul... No, è il biodiesel. Il biodiesel che si ricava dal girasole, ricava dalle piante oleose, diciamo. Allora, cosa ne pensa del test? Allora, sì, sembrava funzionare, nel senso che comunque già la domanda, anche se la risposta è stata sbagliata, se non erro, sì, il butilettere. Esatto. No, poi, comunque, poi appunto insomma, lo correggeva la persona che leggeva le risposte. Com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata durante il master, perché ci siamo resi conto che la comunicazione nel campo delle energie rinnovabili è un po' carente, o meglio, mancava una comunicazione un pochino originale, un po' più divertente, e quindi abbiamo pensato di realizzare appunto un gioco che abbiamo portato avanti durante lo stage e poi insomma è stato fortemente supportato da Area Science Park, grazie all'ingegner Michellone. Ecco, a proposito, Michellone, è il momento di chiamarla in causa, perché io ho letto una lettera di accompagnamento di questo gioco che per il momento è stato fatto solo in 100 copie, nella quale voi dite insomma vi siete autotassati. Com'è andata la vicenda? Quando loro sono stati vincitori, come vincita avevano 15 giorni da noi, e siccome sono abilissimi nel vendere, si sono venduti molto bene, hanno venduto benissimo l'idea del gioco, e tutti abbiamo capito che per fare cultura vera sull'energia occorre saper insegnare, ma anche facendo in modo che chi deve imparare si diverta un pochettino. Per cui abbiamo cominciato a provare questo gioco e a dire che effettivamente bisognava farlo. Quando abbiamo visto quanto costava, c'era da far rizzare i capelli, e serviva quindi fare un'analisi per abbattere i costi e comunque provare a fare 100 prototipi da dare a 100 persone che riuscissero a valutarlo per arrivare poi, speriamo, alla produzione finale che sia concorrenziale anche come prezzo per tutto il resto, come i giochi che si trovano in commercio, ma questo è infinitamente più intelligente. Ecco, diciamo insomma che comunque senza fare nomi ci avete messo proprio i soldi di tasca propria. E tra l'altro avete anche fatto... Abbiamo provato a seguire leggi, regolamenti, e però veniva fuori che se volevamo fare bandi, appalti... finivamo di finanziare questo gioco fra 10 anni, okay. Quindi abbiamo deciso che era molto più facile, siamo in tanti, 1 euro ciascuno si faceva poi in fretta, insomma qualcosa in più. Senta Carta, io so anche che comunque questa ingegnerizzazione del gioco è stata una sorpresa, lei non se l'aspettava? È stata data direttamente dall'ingegnere Michellone proprio durante il convegno finale del Master, ci aveva detto all'inizio questo gioco bisogna produrlo, bisogna fare qualcosa, e da lì insomma poi è nata, abbiamo continuato con questa idea che si è concretizzata proprio durante lo stage lì all'Area Science Park. Va bene, abbiamo concluso la sezione gossip, io direi che possiamo chiudere qui. Grazie e auguri per il gioco. Grazie a tutte e due. Grazie a voi. Una notizia importante dell'ultima ora che ci arriva dagli Stati Uniti e da Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sono Paola, come al solito, ma questa volta mi trovo a Washington DC perché c'è il meeting annuale dell'American Physical Society e c'è qui con me il professor Bruno Coppi. Buonasera professore. Buonasera. Ha due notizie in anteprima per noi riguardanti la fusione che ci fanno capire che ci stiamo davvero avvicinando alla realizzabilità della fusione nucleare. Beh, una è una notizia di tipo, diciamo, quasi politica, nel senso che c'è stato un vertice a Roma tra i primi ministri russo e italiano in cui è stato presentato un documento per una collaborazione nel campo della fusione per realizzare un esperimento che acceleri i tempi della fusione, che è ITER, e questo sarebbe da fare in Russia. E la notizia ufficiale è stata annunciata la scorsa settimana da Mikhail Kovalchuk, che è il direttore del Kurchatov, e quindi mentre la cosa prima era riservata, oggi ne ho potuto parlare, dare l'annuncio in pubblico. Dove si svolgerà questo esperimento? E sarà a Troitsk, che è pochi 20 km da Mosca, in un sito che si chiama Trinity, in cui i russi hanno già costruito le strutture per un esperimento tipo Igniter, quello che abbiamo progettato in Italia, e quindi loro metterebbero a disposizione le strutture e renderebbero questo istituto un istituto internazionale che sia facilmente accessibile, mentre credo che noi italiani dovremmo costruire il nocciolo della macchina con tecnologie avanzate che abbiamo sviluppato. E di quali tempi parliamo? Beh, dipende, è una questione burocratica, perché abbiamo già costruito i pezzi della macchina in scala 1-1, i pezzi principali, quindi sappiamo come costruirli. Bisogna montare, sì, i pezzi come un Lego. No, più che montarli, bisogna finire di costruirli, cioè costruirne tanti, abbiamo fatto uno o due prototipi per ciascun componente. Quindi vogliamo sottolineare che non è un limite scientifico. No, a livello scientifico no. Saremmo pronti a partire. Esatto, e rispetto ad altri programmi questo di gran lunga è più veloce e più sicuro anche a livello scientifico, siccome abbiamo dietro 30 anni di esperimenti all'MIT. Certo, aveva anche un annuncio invece, ecco, più l'altro annuncio che tecnico. È molto interessante, che è tecnico, è che in Italia l'Italia è all'avanguardia sia nello studio che per l'utilizzo pratico di un nuovo tipo di superconduttore che si chiama diboruro di magnesio. Che è scoperto, è stato scoperto, sì, da 9 anni. In laboratorio. Sì. Nel giro di 9 anni è passato appunto da pochi campioni in laboratorio. Noi siamo stati i primi a progettare un magnete di grandi dimensioni, il cui diametro è circa 5 metri per l'esperimento Igniter. E per di più questo apre delle nuove prospettive, perché è possibile sostituire il rame e con materiale strutturale e con questo diboruro di magnesio, quindi che permette di pensare a macchine completamente nuove. Ecco, mi diceva in parole più semplici, se vogliamo capire cosa intende, ecco, questo materiale strutturale. Il diboruro di magnesio? Il rame era un materiale che è noto all'uomo fin dalla preistoria, e ha delle buone qualità di conduttore, può essere usato in grandi, ma non è un buon materiale strutturale. E quindi questa scoperta permette per la prima volta nella storia dell'uomo di sostituire il rame. E ad esempio invece questo diboruro di magnesio e polvere, è una polvere? Sì, contenuta in queste scatole di acciaio ed essendo un refrigerante. Un ottimo superconduttore. Allora è possibile mescolarne una piccola quantità con dei materiali, mi diceva, come ad esempio l'acciaio. Acciaio, esatto, è contenuto in scatole di acciaio in sostanza. E quindi è possibile costruire delle strutture di acciaio che contengano questi grandi campi magnetici che noi dobbiamo fare. Ed è, c'è un'industria italiana che si chiama Columbus, che è una delle poche a livello internazionale capace di costruire questi magneti. Quindi anche questo è un annuncio che ha naturalmente suscitato interesse. Ci può anticipare qualche applicazione, diciamo, al di là del campo della fusione? Lei mi diceva Beh, che... per esempio, questi materiali sono già utilizzati per costruire magneti nel campo medico, per la risonanza nucleare, poi negli acceleratori, per esempio a Ginevra, noi abbiamo un programma in collaborazione col CERN, dove servono appunto questi campi magnetici, servono dei materiali, di questo tipo. Di questo tipo. Ma poi siamo solo all'inizio, perché sono 2 anni che ci lavoriamo, quindi solo l'inizio di una linea molto promettente. Benissimo, allora da Washington per ora è tutto, torneremo da lei per gli aggiornamenti. Grazie. Arrivederci, grazie a lei. Abbiamo chiuso la puntata con il gioco sull'energia rinnovabile e con la fusione, il sogno che seguiamo da anni, proiettati decisamente verso il futuro migliore, insomma. Möbius finisce qui, buona serata a tutti e a tutte e alla prossima settimana.